Io sono convinto che in base a quelle che sono state le sue affermazioni, almeno il 60% di tutto quello che ha detto verrà fatto. Ah, ecco, non abbiamo una cosa ufficiale. Dunque, il sindaco di Lampedusa, De Rubais, credo che al 60% quello che dice Berlusconi verrà fatto. 60%, cioè che cos'è che non verrà fatto? Diciamolo subito. Il 40% che c'è dentro il 40%? Ma intanto nel 40% c'è la zona franca che deve essere decisa da un'Europa assente e non dal governo italiano. Vabbè, poi? Sull'aspetto del casinò non l'aveva dato per certo, ma c'è da vedere. E il casinò, certo, è forte pure questo, il casinò. Certo, l'aspetto del Nobel della pace non è l'Italia che lo decide, pertanto su quello che le strade, la viabilità, il piano colore, la questione del caro gasolio, che sono centinaia di mila euro, e il rilancio dell'immagine con spot pubblicitari e gestioni ministeriali, questi si possono fare. Sì, ma si possono fare, no, De Rubais, lei ha ragione, si possono fare, ma lei ci crede oppure no? Mi dica la verità, perché io ci credo, perché ho fiducia in questo personaggio che è il presidente Berlusconi, ho notato la sua grande apertura. Pertanto non siamo qui in presenza di una campagna elettorale o di proclami elettorali,